Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quando parliamo di calcio, come sapete, noi andiamo a inseguire le storie suggestive, le storie piene di emotività, di letteratura, e per farlo siamo disposti ad andare da una parte all'altra dell'oceano, un po' in Sud America, un po' in Europa. E quando si va in Sud America, uno dei paesi chiave del calcio assieme all'Argentina è naturalmente il Brasile, con i suoi grandi campioni e la sua storia. E poi c'è il popolo brasiliano, che ha un modo di concepire il gioco del calcio particolare, diventa parte della cultura della loro nazione. È una nazione che combatte sempre problemi economici, sociali, ma che vuole dare di sé un'immagine di modernità organizzando campionati mondiali, olimpiadi, vuole mostrare un volto moderno a dispetto anche di tutti i grossi problemi irrisolti. E poi c'è il cuore brasiliano, la voglia di divertirsi, di dimenticare tutto, di creare, di inventare, di fare letteratura con il proprio calcio. Bene, il calciatore di cui parleremo oggi non solo ha infiammato il cuore dei suoi tifosi con grandi giocate, ma ha contribuito a dare un forte impulso al Brasile verso quella modernità che oggi il Brasile mostra al mondo, e anche alla cultura brasiliana e alla voglia di democrazia di quel paese. Insomma, il nome di questo calciatore è Sócrates. E parlando di Brasile, avremmo potuto iniziare con un ritmo di samba, con la caratteristica allegria del Brasile, e invece siamo partiti con dei rumori di carri armati. Sono i carri armati che il 31 marzo 1964 attraversarono le strade di Rio, di San Paulo e di tutte le grandi città del Brasile. Un golpe militare aveva istituito una dittatura destinata a durare per molti anni, e i riflessi della dittatura si vedono in ogni parte del paese, anche a Belém, nella regione amazzonica del nord, dove vive un bambino di 10 anni, è il primo di 6 fratelli e ha un nome lunghissimo: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Da tutti sarà conosciuto come Sócrates, e lui deve il nome di battesimo alla passione che il padre ha per la lettura, una lettura colta. Il padre non ha potuto studiare, vuole rifarsi, e così chiama i figli Sócrates, Sofocles e Sostenes, cioè tre filosofi. E ci sono libri in casa, però sono libri scomodi, perché in quegli anni alla polizia non piace che si legga molto. E così il padre una sera è costretto a fare una cosa che non avrebbe mai voluto fare. Mio padre aveva in casa molti libri che parlavano di comunismo, socialismo, libri che, se trovati dalla polizia, potevano mettere a rischio l'incolumità di tutta la famiglia. Così una sera li prese e li bruciò tutti nel camino. Questo è sicuramente il ricordo più triste della mia infanzia. Proprio da questa immagine nasce in Sócrates quella voglia di riprendere possesso di quella cultura andata in fumo. Lui va a scuola, studia con passione, raggiunge il diploma, alterna lo studio con la sua passione per il calcio, passione che condivide con milioni di bambini brasiliani da sempre. Intanto però si iscrive all'università, studia medicina, è un ragazzo intelligente, e questo però lo si vede anche quando gioca a pallone, perché lui usa bene i piedi, ma soprattutto usa la testa, e questa caratteristica diventerà presto il suo punto di forza. Giocavo a calcio, ma stavo anche per diventare medico. Da me si aspettavano che fossi il più ingegnoso di tutti. Se non avessi studiato medicina, sarei stato un giocatore più limitato. Inizia la sua carriera nel 1974 al Botafogo. A 20 anni sta ancora studiando, ma è intelligente, è dotato di una memoria incredibile, riesce a conciliare i suoi studi e gli allenamenti. È un calciatore anomalo perché è molto alto, 1,90 m, magro, slanciato, e questo è un po' limitativo per un giocatore di calcio. Poi è alto e non è neanche tanto agile, ha i piedi piccoli, taglia 40, lui stesso stesso ha sostenuto che ogni volta che prova a girarsi con il pallone rischia di cadere. Ecco perché decide di migliorare la sua tecnica di gioco per compensare quella scarsa agilità. E a volte, invece che girarsi e passare la palla, perfeziona il colpo di tacco che diventerà presto il suo marchio di fabbrica. È una giocata con la quale effettua passaggi, assist e soprattutto gol. Corinthians si scappa con Dino, pare Edoardo, tem Zanon, soltinho, Zanoniolo, lançado Zanon, um pra lá, dois pra cá, saiu o goleiro, tentou o gol do campeão, recolheu, olha o Bi pra toca, tira o Nino lá, tira o Nino ali, e que Durante gli anni dell'università preferivo definirmi uno studente universitario anziché un calciatore professionista. Però facevo tutte e due le cose. Tant'è che nel 76 sono stato capocannoniere con il Botafogo e l'anno dopo mi sono laureato in medicina. Nel 1978 Socrates va al Corinthians di San Paolo. San Paolo è una città enorme dove ti perdi. Io ci sono stato, si viaggiava per ore in macchina nel traffico senza arrivare da nessuna parte. Insomma, una città dove si fa fatica a ambientarsi. E poi c'è una insicurezza di fondo in Socrates, cioè la paura appunto di affrontare una realtà come questa. E lui trova rimedio a questa insicurezza perché gli piace bere. Non fa nulla per nascondere questa passione che lo accompagnerà per tutta la vita. Intanto durante gli allenamenti del portiere scommette di riuscire a far gol di tacco e paga da bere se perde e vince quasi sempre e gli viene pagato da bere. In tutti e due i casi beve. Il pubblico del Corinthians però lo accoglie a braccia aperte, è un pubblico popolare, raccoglie il tifo povero, il tifo dei diseredati, delle favelas, a differenza del pubblico del San Paolo che è la parte borghese della città. Socrates si lascia accogliere dal Corinthians, l'abbraccio proletario. Il falco e il gabbiano. E così questo strano calciatore alto con la barba che si laurea in medicina, che legge libri, insomma l'antitesi del classico calciatore brasiliano di quegli anni, questo strano uomo Socrates conquista la sua tifoseria, una tifoseria calda e genuina che rispecchia le umili origini della parte povera di San Paolo, sono i tifosi del Corinthians. Lui nel frattempo si sta confrontando col fatto che il paese è governato da una dittatura militare che lui palesemente non ama. L'ambiente universitario è l'unico luogo dove si possono coltivare delle idee di opposizione a questo regime, però è anche il luogo più pericoloso. Insomma, in questa storia di oggi il calcio è un piatto importante ma non il piatto principale, perché qui c'è la volontà di una generazione di ventenni che vuole scuotere il Brasile da un torpore in cui vive da più di un decennio. Perché il popolo non poteva parlare, non poteva dire, non poteva fare neanche riunioni con più di 5 persone. Così la propria espressione, la unica opportunità di parlare qualcosa su metafora era in carnavali o in calcio. Già, il carnevale è l'unico momento concesso a un popolo sottomesso per esprimere il suo dissenso, magari attraverso la satira, lo scherzo. Il calcio invece è l'unico momento di aggregazione importante per la cultura brasiliana. Insomma, è l'unico mezzo nel quale le persone possono sentirsi unite senza opporsi al regime. Anzi, il regime naturalmente capitalizza il calcio. Socrates ha capito questa cosa. Le sue idee sono chiare, nascono dall'immagine di suo padre che distrugge i libri sul socialismo per paura di procurare danni alla sua famiglia. E per abbattere questa dittatura militare bisogna rieducare il popolo dal basso utilizzando l'unico mezzo di comunicazione di massa, il calcio. Levantando pro Doutor, Doutor tentou aceitar para Paulinho, tentou tabela na boca do gol, não deu certo, voltou para Wagner, para Paulinho, abriu na direita, para o finete de cabeça, tentou o Doutor, nominou, foi embora para a grande área, um para lá, dois para cá, tira o Nino lá, tira o Nino ali, e que gol! E nel Corinthians, Socrates conquista subito la fascia da capitano. Da una parte c'è il calcio giocato, Socrates si dimostra giocatore tecnico, accarezza il pallone, lo nasconde all'avversario, corre poco forse, non ha il fisico adatto a correre veloce, però impara a usare la testa, acquisisce una visione di gioco superiore a tutti i suoi compagni, è un leader in campo e in breve tempo diventa un leader anche nello spogliatoio, perché è l'uomo che viene ascoltato dalla dirigenza, è l'uomo che i tifosi rispettano. Entra in gioco un secondo aspetto, quello legato alla politica. Quando segnavo un gol, non esultavo mai. Non lo facevo per mancanza di rispetto alla squadra, ma lo facevo perché volevo che i tifosi capissero che vivevamo in una situazione in cui non c'era niente per cui gioire. E per cambiare le cose bisognava essere uniti. Insomma, Socrates inizia a svolgere un lavoro di pubbliche relazioni con giornalisti, con uomini di cultura, di sport, della politica. Diventerà amico di Lula, il futuro presidente del Brasile, e poi dei cantautori brasiliani che sono sempre stati, come dire, l'asse portante del paese: Gilberto Gil, Chico Buarque, peraltro in quel momento, proprio perché sono le persone più importanti tra i cervelli del Brasile, devono lasciarlo il Brasile. E Socrates invece rimane, decide di cambiare le gerarchie del calcio partendo dagli spogliatoi del Corinthians. E così al Corinthians inizia un esperimento di autogestione democratica. Le decisioni inerenti alla squadra vengono prese da tutti i giocatori e dai dirigenti durante delle assemblee che ricordano un po' il consiglio di fabbrica. Socrates, con Casagrande e Vladimir, altri due campioni di quel periodo, diventa l'artefice di quella che passa alla storia come la democrazia corinthiana. E in questo collettivo proletario non ci sono orari tassativi per gli allenamenti. Se un giocatore vuole, può presentarsi direttamente in campo il giorno della partita. Non esistono i ritiri. La formazione si decide al termine di assemblee che a volte durano 6-7 ore. Insomma, una cosa assurda se si pensa al calcio moderno, però non bisogna pensare al calcio, alle vittorie, bisogna pensare alla volontà di andare contro i divieti e a tutte quelle costruzioni e quelle costrizioni di una dittatura che formalmente limita la libertà in qualunque ambito della società civile. In un mondo in cui nessuno poteva esprimere le proprie idee, noi abbiamo creato un luogo in cui potevamo esprimerci liberamente su ogni cosa. Ci divertivamo giocando, ma eravamo responsabili delle nostre scelte e questo ci faceva sentire liberi. La squadra comunque è forte e poi non si sa se per l'autogestione o per l'ondata di entusiasmo che si respira attorno a questo progetto e si comincia a vincere, e vince 2 anni consecutivi lo scudetto. E la squadra porta la protesta anche sul campo, perché sfoggia magliette con la scritta democrazia corinthiana, stampa i numeri al contrario in segno di protesta contro la disinformazione con cui vengono tenuti nascosti gli atti di repressione della polizia. Insomma, in breve, i giocatori diventano un simbolo di rivolta, danno il via a una serie di iniziative popolari che un po' alla volta fanno crollare il castello di carte su cui era costruita la dittatura militare. Di questa squadra Socrates è il leader e il capitano. E intanto arriva il 1982, il Brasile parte per la Spagna per giocare il mondiale e possibilmente per vincerlo. E anche qui il capitano di quella nazionale è lui, Socrates. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grande campione brasiliano, Socrates. Ma non solo di un campione del calcio. Siamo arrivati al momento in cui il nostro protagonista è capitano di quei magnifici 11 della seleção brasiliana che partono per la Spagna per partecipare al mondiale del 1982. In quella squadra ci sono Zico, Falcao, Junior, Cerezo, Eder, Serginho e naturalmente c'è lui, il capitano, Socrates, l'unico giocatore del Corinthians, forse perché il Corinthians in quegli anni ha mostrato che si può vincere senza seguire gli schemi tradizionali del calcio, e soprattutto perché il Corinthians diventa, con la sua autogestione, una specie di schiaffo alla dittatura e all'establishment brasiliano. Eh sì, perché le assemblee con cui i giocatori preparano la partita diventano per tutto il Brasile il primo esempio della protesta contro la dittatura che governa il paese dal 64. Insomma, le piazze cominciano a riempirsi davanti alla folla che chiede libertà e democrazia. Ci sono sempre i giocatori più rappresentativi, tra cui lui, Socrates. Sappiamo anche noi quanto la politica e il calcio siano legati. Abbiamo avuto esempi recenti in cui il successo di uno schieramento politico rifletteva in qualche modo i risultati del campionato. Bene, in Brasile la stessa cosa avviene anche in maniera esasperata. I generali non riescono a mantenere il controllo della situazione e una vittoria del Brasile ai mondiali da un lato potrebbe dare una spallata decisiva sulla scia dell'entusiasmo, dall'altro forse invece potrebbe rafforzare la parte propagandistica del regime. Ecco la formazione italiana: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. L'Italia gioca il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile. Chi vince va in semifinale. Pareggio è per i brasiliani. 5 luglio 1982, Barcellona. Si incontrano l'Italia di Berzotti e il Brasile di Tele Santana. Quell'anno il mondiale ha una soluzione cervellotica per stabilire le semifinaliste. Ci sono dei gironi a tre, chi vince passa e va in semifinale. L'Argentina perde con l'Italia 2-1 e perde con il Brasile 3-1. Risultato: Brasile e Italia devono incontrarsi, ma il pareggio basta ai brasiliani. L'Italia parte sfavorita, anche se comunque c'è un minimo di ottimismo per la vittoria con l'Argentina. Bene, la partita Italia-Brasile diventa una di quelle partite che verranno ricordate per generazioni. È un susseguirsi di emozioni. L'Italia che segna con Rossi, poi Socrates che pareggia, poi Rossi ancora, poi Falcao e poi il terzo gol di Paolo Rossi e poi il gol di Antognoni è annullato, un gol regolare, e poi la parata sulla linea di Zoff allo scadere. E insomma, una partita al cardiopalma che regala all'Italia la semifinale, una gioia che riempie le piazze di tutto il paese e una ennesima tragedia al Brasile. E ogni tanto il Brasile subisce queste sconfitte e tutto il paese va in lutto, come accadde nel 1950 quando persero 2-1 la finale con l'Uruguay. Insomma, il Brasile, come spesso accade a quella squadra, entra in campo convinta di aver già vinto, potrebbe accontentarsi del pareggio, invece gioca per vincere, per mostrare al mondo il suo calcio bailado, la sua fantasia, e in qualche modo soccombe. Da quel momento la nazionale brasiliana non sarà più la stessa, perché quella fantasia, quel calcio bailado lasceranno lo spazio a schemi di gioco più attenti, magari a una difesa più forte e magari anche a un minimo di capitalizzazione dei risultati. Dopo il mondiale cominciarono ad arrivarmi richieste da tutte le squadre estere. Mi offrirono tanti soldi, ma io sentivo che lontano dal mio paese non sarei stato felice. Di sicuro più ricco, ma infelice. Socrates sa di essere il simbolo di una rivoluzione che sta muovendo i suoi primi passi. Insomma, lasciare il paese per lui equivale a tradire un popolo che sta cercando di riacquistare la libertà. Bisogna cercare di giocare le carte migliori prima che sia troppo tardi. Così in un comizio elettorale si sbilancia, parla apertamente al popolo brasiliano, dice che se il Parlamento avesse bocciato un emendamento che spianava la strada a libere elezioni avrebbe lasciato il calcio brasiliano per trasferirsi all'estero. È un colpo d'ala che può voler dire una vittoria oppure una resa. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Libertà e partecipazione. L'emendamento a favore del quale si è schierato Socrates non passa. Il dottore, come tutti lo chiamano, deve accettare la sconfitta. E qui bisogna accettare anche un'offerta. Tra le varie che lui riceve c'è quella di una squadra di una città tra le più belle del mondo, famosa per la cultura, per la bellezza dei monumenti. E sì, perché Socrates non è che sceglie la squadra dove gli danno più soldi, sceglie qualcosa con cui pensa di poter comunicare e scegliere sceglie Firenze e così nell'84 lui lascia la democrazia corinziana per raggiungere Firenze e indossare la maglia della Fiorentina. Altri brasiliani sono arrivati in Italia, c'è Zico all'Udinese, c'è Junior prima al Pescara, poi al Torino, c'è Cerezo che arriverà poi a vincere lo scudetto con la Sampdoria. L'avventura italiana però per Socrates non è così felice, si rivela più difficile del previsto. Quando raggiunsi l'Italia fu molto difficile per me abituarmi a ritmi che non avevo mai avuto. Gli allenamenti, la preparazione atletica, la fatica, erano tutte cose che al Corinthians non venivano imposte. Il calcio italiano era completamente diverso da quello che mi aspettavo. Per lui fu un impatto difficile proprio per la differenza di mentalità. Lui soffriva molto perché c'erano dei calciatori nello spogliatoio con i quali lui non andava d'accordo. Non si adattava perché il calciatore italiano era abituato a dei ritmi, no? E anche a delle privazioni. Quello era un lavoro, non era un divertimento. Giovanni Galli è il portiere di quella Fiorentina in cui giocano anche Antonioni, Gentile, Passarella. Insomma, Socrates, come spesso è accaduto ai giocatori brasiliani, non riesce ad adattarsi ai ritmi di gioco, alle pressioni dei giornali, alla diversa mentalità con cui si concepisce il calcio in Italia. I risultati non sono brillanti. È un uomo solo, incapace di reagire, che trova ancora una volta l'unica consolazione nel bere. La vita sembra che lo abbia tradito. Passare dall'essere il leader del Corinthians a un normale giocatore, spesso oggetto delle critiche dei giornali, ma anche dei compagni di squadra, fanno sì che l'esperienza italiana duri solo un anno. Nell'86 torna in Brasile per vestire un'altra maglia, quella del Flamengo, dove ritrova Zico, anche lui tornato a casa dopo i 2 anni con l'Udinese. Oh, a bola enfiada pro Bebeto, entre dois homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gli anni cominciano a passare e Socrates ne ha 32, però il suo fisico comincia a essere debilitato dall'alcol, lo stato di forma si abbassa, lui si opera la schiena, insomma sta finendo la magia che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. Gioca ancora una stagione nel Santos, poi si ritira. Il 1988, la carriera del dottor Guevara del calcio, come una volta l'ha soprannominato un giornale italiano, finisce in silenzio. Si dice che un calciatore muoia 2 volte, quando lascia il calcio e quando muore sul serio. Su questo Socrates ha sempre obiettato una cosa: un calciatore non abbandona mai il calcio, è il calcio a abbandonare il calciatore. Quando si parla di fine carriera ci dimentichiamo che il calciatore che va in pensione è uno di 32, 35, 38 anni al massimo, e quindi nella maggior parte dei casi e c'è da inventarsi una seconda vita, da trovare qualcosa da fare dopo il calcio. Beh, Socrates è una persona intelligente, è laureato in medicina, così dopo il suo ritiro ufficiale cerca di ridare un senso alla sua vita, torna a fare il medico, poi vive anche un periodo, diciamo, di confusione, una specie di iperattività un po' casuale, fa il medico, però fa il cantante ma con scarsi risultati, poi fa il commentatore sportivo, l'opinionista in televisione. Insomma, sta vivendo un momento di solitudine interiore in cui fare una cosa o un'altra è solo un modo per tenere impegnata una mente che è sempre stata abituata a prendersi cura degli altri, a essere un esempio da imitare, a fare il bene del suo popolo. Ho visto la fine della dittatura militare e le prime elezioni libere dopo tanti anni nel 1985, con l'elezione del presidente Neves. Ho visto realizzarsi il sogno per cui molti di noi hanno lottato per molti anni. Il vizio del bere non è diminuito, anzi è aumentato dopo il ritiro dal calcio giocato. E così arriva la cirrosi epatica. Il suo corpo sta lottando una battaglia il cui esito è già scritto. Il 3 dicembre 2011 Socrates viene ricoverato per l'ultima volta, viene colpito da una crisi respiratoria. Nell'83 disse in un'intervista: vorrei morire di domenica, il giorno in cui il Corinthians vince il titolo. E bene, Socrates muore il 4 dicembre 2011, proprio nel giorno in cui la squadra conquista conquista il titolo nazionale. Lo stadio non gioisce, sugli spalti gli striscioni inneggiano al campione che non c'è più, i giocatori si stringono sul cerchio di centrocampo e alzano il pugno al cielo, così come faceva Socrate ogni volta che andava in gol. E sugli spalti quel giorno tutti i tifosi ripetono quel gesto per salutare un uomo che, tirando calci a un pallone, ha saputo diventare un condottiero capace di liberare il suo popolo. Noi abbiamo scelto di raccontarvi più che possiamo vite straordinarie. Questa volta ci siamo superati perché abbiamo raccontato la storia di un grande calciatore, ma anche di un grande uomo e di un grande leader per un paese come il Brasile, che ha sempre vissuto grandi difficoltà ed è uno dei paesi nei quali, come dire, il sopruso è più forte. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it oppure ai miei social, nel mio Facebook, nel mio Twitter, a segnalarci altre storie di cui volete che noi ci si occupi. E se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.